nel periodo in cui la città santa godeva completa pace e le leggi erano osservate perfettamente per la pietà del sommo sacerdote Onia e la sua avversione al male, gli stessi re avevano preso ad onorare il luogo santo e a glorificare il tempio con doni insigni, al punto che Seleuco, re dell'Asia, provvedeva con le proprie entrate a tutte le spese riguardanti il servizio dei sacrifici. Ma un certo Simone, della tribù di Bilga, nominato sovrintendente del Tempio, venne a trovarsi in contrasto con il sommo sacerdote intorno all'amministrazione della città. Non potendo aver ragione con Onia, si recò da Apollonio di Tarso, che in quel periodo era stratega della Celesiria e della Fenicia, e gli riferì che il tesoro di Gerusalemme era colmo di ricchezze immense, tanto che l'ammontare del capitale era incalcolabile e non serviva per le spese dei sacrifici. Era quindi ben possibile ridurre tutto in potere del re. Apollonio si incontrò con il re e gli riferì intorno alle ricchezze a lui denunciate. Quegli designò l'incaricato degli affari Eliodoro e lo inviò con l'ordine di effettuare il prelevamento delle suddette ricchezze. Eliodoro si mise subito in viaggio, in apparenza per visitare le città della Celesiria e della Fenicia, in realtà per compiere l'incarico del re. Giunto a Gerusalemme e accolto con deferenza dal sommo sacerdote della città, espose le segnalazioni ricevute e disse chiaro il motivo per cui era venuto. Domandava poi se le cose stavano realmente così. Il sommo sacerdote gli spiegò che quelli erano i depositi delle vedove e degli orfani, che una parte era anche di Ircano, figlio di Tobia, persona di condizione assai elevata, che l'empio Simone andava denunciando la cosa a modo suo, ma complessivamente si trattava di 400 talenti d'argento e 200 d'oro, che era assolutamente impossibile permettere che fossero ingannati coloro che si erano fidati della santità del luogo e del carattere sacro e inviolabile di un tempio venerato in tutto il mondo. Ma Eliodoro, a causa degli ordini ricevuti dal re, rispose recisamente che quelle ricchezze dovevano essere trasferite nell'erario del re. Venne in un giorno da lui stabilito per ordinare l'inventario delle medesime, mentre tutta la città era in grande agitazione. I sacerdoti, rivestiti degli abiti sacerdotali, si erano prostrati davanti all'altare ed elevavano suppliche al cielo che aveva sancito la legge dei depositi, perché fossero conservati integri a coloro che li avevano consegnati. Chi guardava l'aspetto del sommo sacerdote riportava uno strazio al cuore, poiché il volto e il cambiamento di colore ne mostravano l'intimo tormento. Tutta la sua persona era immersa in un timore e in un tremito del corpo da cui appariva manifesta a chi lo osservava l'angoscia che aveva in cuore. Anche dalle case uscivano per accorrere in folla a una pubblica supplica, perché il luogo santo stava per essere violato. Le donne, cingendo sotto il petto il cilicio, riempivano le strade. Anche le fanciulle, di solito ritirate, in parte accorrevano alle porte, in parte sulle mura, altre si sporgevano dalle finestre. Tutte con le mani protese verso il cielo moltiplicavano le suppliche. Muoveva a compassione il pianto confuso della moltitudine e l'ansia tormentosa del sommo sacerdote. Essi supplicavano l'Onnipotente Signore che volesse conservare intatti, in piena sicurezza, i depositi per coloro che li avevano consegnati. Eliodoro metteva ugualmente in esecuzione il suo programma. Ma appena fu arrivato sul posto con gli armati presso il tesoro, il Signore degli spiriti e di ogni potere compì un'apparizione straordinaria, così che tutti i temerari che avevano osato entrare, colpiti dalla potenza di Dio, si trovarono fiaccati e atterriti. Infatti apparve loro un cavallo, montato da un cavaliere terribile e rivestito di splendida bardatura, il quale si spinse con impeto contro Eliodoro e lo percosse con gli zoccoli anteriori, mentre il cavaliere appariva rivestito di armatura d'oro. A lui apparvero inoltre altri due giovani dotati di gran forza, splendidi di bellezza e con vesti meravigliose, i quali, postisi ai due lati, lo flagellavano senza posa, infliggendogli numerose percosse. In un attimo fu atterrato e si trovò immerso in una fitta oscurità. Allora i suoi lo afferrarono e lo misero in una barella. Egli, che era entrato poco prima nella suddetta camera del tesoro, con numeroso seguito e con tutta la guardia, fu portato via, impotente ad aiutarsi. Dopo aver sperimentato nel modo più evidente la potenza di Dio, così, mentre egli, prostrato dalla forza divina, era là senza voce e privo di ogni speranza di salvezza, gli altri benedicevano il Signore che aveva glorificato il suo luogo santo. Il tempio, che poco prima era pieno di trepidazione e confusione, dopo che il Signore Onnipotente aveva manifestato il suo intervento, si riempì di gioia e di letizia. Subito alcuni compagni di Eliodoro pregarono Onia che supplicasse l'Altissimo e impetrasse la grazia della vita a colui che stava irrimediabilmente esalando l'ultimo respiro. Il sommo sacerdote, temendo che il re per avventura venisse a sospettare che i giudei avessero treso un tranello a Eliodoro, offrì un sacrificio per la salute dell'uomo. Mentre il sommo sacerdote compiva il rito propiziatorio, apparvero a Eliodoro gli stessi giovani adorni delle stesse vesti, i quali in piedi dissero: «Ringrazia ampiamente il sommo sacerdote Onia, per merito del quale il Signore ti ridà la vita. Tu poi, che hai sperimentato i flagelli del cielo, annuncia a tutti la grande potenza di Dio». Dette queste parole, disparvero. Eliodoro offrì un sacrificio al Signore e innalzò grandi preghiere a colui che gli aveva restituito la vita. Poi si congedò da Onia e fece ritorno con il suo seguito dal re. Egli testimoniava a tutti le opere del sommo Dio che aveva visto con i suoi occhi. Quando poi il re gli domandava chi fosse adatto ad essere inviato ancora una volta in Gerusalemme, rispondeva: «Se hai qualcuno che ti è nemico o insidia il tuo governo, mandalo là, e l'avrai indietro flagellato per bene, seppure ne uscirà salvo, perché in quel luogo c'è veramente una potenza divina. Lo stesso che ha la sua dimora nei cieli è custode e difensore di quel luogo, ed è pronto a percuotere e abbattere coloro che vi accedono con cattiva intenzione». Così dunque si sono svolti i fatti riguardanti Eliodoro e la difesa del tesoro.